vivo, perché è la passione che mi spinge. Rido, chi fa rap ma in realtà sa che finge. Vivo in un nido che non si restringe, che mi accoglie a braccia aperte sempre e non mi respinge. In questo nido non c'è posto per chi implora, chi scoppia personalità per la mia dimora. Qui una volta ancora la pazzia mi sfiora e mi ripete nelle orecchie, falli tutti fuori ora. Scrivo perché è la passione che mi spinge. Rido, chi fa rap ma in realtà sa che finge. Vivo in un nido che non si restringe, che mi accoglie a braccia aperte sempre e non mi respinge. In questo nido non c'è posto per chi implora, chi scoppia personalità per la mia dimora. Qui una volta ancora la pazzia mi sfiora e mi ripete nelle orecchie, falli tutti fuori ora. Bastanti alzano polvere per corrompere, usano sguardi per irrompere su traguardi dove diffondere cartini e mordere. Li vedi correre, li vedi sfottere, vedi anche il 90% di loro dissolvere. Rimangono i forze, rimangono i se, rimangono impronte, ma è legittimo proprietario. Dov'è di fronte a me non c'è dietro di te, ma anche compaiono come l'orario. Se mi fumi una pirelle, avvertenze non le leggono perché nessuno le consegna. Le conoscenze non le apprendono perché non c'è più chi le insegna. E quello che regna è un altro cervello con la segatura di legna. Questa cultura disegna e il segno lo trovi sul petto, cuore aperto verso la musica, l'amore e il rispetto. L'unica strada che si percorre con una rima e un testo, perciò non ammetto chi rovina. Scrivo perché è la passione che mi spinge. Rido, fa rap ma in realtà sa che finge. Vivo un nido che non si restringe, che mi accoglie a braccia aperte sempre e non mi respinge. In questo nido non c'è posto per chi implora, chi scoppia personalità per la mia dimora. Qui una volta ancora la pazzia mi sfiora, mi ripete nelle orecchie, falli tutti fuori ora. Fuori è un boicottaggio universale, si gira su un cerchio senza raggio con l'interno che ha spirale. Fermo non ci può restare, e vuoi non vuoi, no vuoi, riparti dall'inferno che equivale lo stesso punto iniziale. Dopo ogni cazzo di volta ti ritrovi a pensare, ma in fin dei conti chi me lo fa fare di sprecare tempo, sudore, energia e fatica per sentirmi spento come gli occhi miei quando guardo la vita. Osserva verso l'alto, c'è una vetta da scalare, ma non c'è né chi ti aspetta e nulla su cui puoi contare. Preferisci la giuetta e dici che è meglio scopare, poi finisce anche quella. Cosa rimane? Troppi perdenti in giro che raccontano di ciò che non vivono e dicono che si sfondano con un filo passivo. Qual è il motivo? Io no, non ho capito perché borbottate solamente pretendendo il piatto servito. Scrivo perché è la passione che mi spinge. Rido, fa rap ma in realtà sa che finge. Vivo un nido che non si restringe, che mi accoglie a braccia aperte sempre e non mi respinge. In questo nido non c'è posto per chi implora, chi scoppia personalità per la mia dimora. Qui una volta ancora la pazzia mi sfiora e mi ripete nelle orecchie, falli tutti fuori ora. Falli tutti fuori ora. Draca, porta la pazzia, è così che va la storia ancestrale per la